Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, dove chiaramente non potremmo non parlare non tanto di quello che è successo a Parigi venerdì sera e poi gli sviluppi che sta avendo i nostri GR24 e gli speciali che Radio 24 ha organizzato in questi giorni, vi stanno raccontando tutta la tragedia e anche il tentativo di reazione da parte della Francia, ma non solo, c'è un G20, parleremo anche del G20 sia sul fronte della politica estera che sul fronte della politica economica. Wall Street ha osservato un minuto di silenzio per gli attacchi a Parigi, quindi 60 secondi di silenzio anche all'apertura delle borse americane. Le borse oggi, lo dico subito, c'era chi temeva una reazione delle borse, in realtà non c'è stata, ma era abbastanza presumibile che non ci sarebbe stata. Non, a mio avviso, in questo momento sarebbe anche sbagliato cercare di, tra virgolette, contaminare tutto con quanto è successo a Parigi. In questo momento la borsa francese perde lo 0,1%, Milano è invariata, Francoforte è invariata, Londra più 0,30%, l'America più 0,24% sul Dow Jones. Il che non vuol dire però che non si possono fare, li faremo, dei ragionamenti anche di carattere economico sull'ISIS in primo luogo, sui terroristi dell'ISIS, sulla capacità che hanno di finanziarsi e anche su alcuni errori. Non possiamo trasformare il programma in un programma di politica estera o di relazioni internazionali, però su alcuni errori che hanno avuto anche una matrice di carattere economico, penso nel caso dei migranti a quello che è stata l'operazione in Libia. Molti hanno voluto vedere in quell'operazione un tentativo anche della Francia di avere una presenza più forte nell'estrazione petrolifera in Libia. In questo caso però, per essere precisi, stiamo ragionando soprattutto dei milioni di euro che riesce a guadagnare l'ISIS attraverso la vendita sotto banco dei barili di petrolio. Per quello che riguarda invece le altre notizie, al di là, diciamo, della copertura di quello che è avvenuto a Parigi, faccio notare, a proposito, oggi Vladimir Putin, arrivando al G20, ha detto insomma i jihadisti dell'ISIS sono finanziati da persone fisiche provenienti da 40 paesi, tra cui anche membri del G20, e Putin ha poi precisato di aver condiviso con i colleghi del summit ad Antalya i dati a disposizione della Russia sul finanziamento ai terroristi, e poi stop al contrabbando di petrolio, decine di chilometri di cisterne che partono ogni giorno dalle aree occupate dall'ISIS. Putin ha detto che le immagini dallo spazio e dagli aerei ci hanno fatto vedere, ho fatto vedere ai colleghi queste immagini che mostrano chiaramente le colonne di autocisterne lunghe decine di chilometri. Il Financial Times ha stimato in 500 milioni di dollari l'incasso degli ultimi 12 mesi da parte dei terroristi dell'ISIS per la vendita sotto banco. Ora, non ci vuole un genio per capire che si tratta di 40 milioni di dollari al mese, sufficienti a finanziare una guerra e i terroristi in maniera mai vista prima, mezzo miliardo in 12 mesi, e sempre il Financial Times sostiene che gli oltre 10.000 raid condotti in un anno dalla coalizione sono stati fino ad ora un flop, quindi smontando le indicazioni dei servizi occidentali sull'impatto dei bombardamenti nel loro territorio, gli jihadisti riescono comunque a produrre tra i 35 e 40 mila barili di petrolio al giorno, e se uno non affronta anche il tema da un punto di vista economico è difficile poi anche qualunque ragionamento di carattere militare e geopolitico. Dicevo, al di là dei temi legati però all'ISIS e agli attentati di Parigi, per quello che riguarda gli altri temi ci occuperemo anche del G20 di carattere economico, e di alcune modifiche che stanno arrivando sulla legge di stabilità. Ne cito due in primo luogo. Si va verso a degli sconti fiscali forti, cioè via le tasse sulla casa anche per le abitazioni lasciate da chi si separa dall'ex coniuge, a patto che si sia proprietario di un solo immobile. È una delle ipotesi al vaglio della maggioranza del governo per agevolare la manovra, la parte che riguarda i separati / divorziati. Il criterio di un solo immobile di proprietà potrebbe essere usato anche per dare lo sconto alle case date in comodato d'uso ai figli. E poi le spese per i farmaci innovativi, compreso per esempio quello contro l'epatite C, rimarranno nel 2015 e nel 2016 a carico del Sistema Sanitario Nazionale e quindi non concorreranno al raggiungimento, la loro spesa non si sommerà al raggiungimento del tetto di spesa per la spesa farmaceutica territoriale, se non per la quota che scende il fondo ad hoc. Comunque, insomma, non verranno calcolate nel tetto di spesa per la farmaceutica territoriale. Allora, nel frattempo, altre notizie più di carattere locale: 349-238-6666 per i vostri sms, per scrivere anche su WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, andiamo con ordine. Dicevamo della borsa, delle borse. Parigi aveva girato anche in positivo, adesso è tornata a perdere lo 0,36. Per quello che riguarda Milano, Anima Holding più 2,30, Finmeccanica più 2,20, Buzzi Unicem più 1,80, Prismian più 1,36%, Enel più 1,20, Luxottica più 1,1 come Campari, Azimut più 1%, A2A più 0,90. Ancora tra chi invece perde oggi in borsa: CNH Industria meno 5,30, Ferragamo meno 4,50, Mediaset meno 2,20 come Fiat Chrysler, Jux meno 2,12, Tod's meno 1,5 come Atlantia e Moncler. L'1,1 lo perdono sia la Popolare Emilia Romagna che Unicredit, che il Monte dei Paschi di Siena. Nel frattempo in Giappone è tornato il PIL negativo, meno 0,2% a luglio-settembre, quindi nel terzo trimestre, e meno 0,8% su base annualizzata. Per quello che riguarda il G20, dicevamo, faccio notare una cosa, però poi ne parleremo, che c'è anche un articolo sui Financial Times, oltre che sul modo in cui i terroristi dell'ISIS riescono a vendere il petrolio e il giro d'affari che questo porta nelle casse dell'ISIS. C'è anche un articolo su Financial Times in cui l'editorialista Wolfgang Minkau è abbastanza critico sulla ripresa italiana. Dice: la ripresa italiana non è ciò che sembra. Esprime forti perplessità in merito a alcune dichiarazioni del consigliere economico di Palazzo Chigi, Joram Gutgeld, secondo cui le riforme varate dal governo Renzi, grazie a queste riforme l'Italia sarebbe immune dall'eventuale rallentamento dell'economia globale per i prossimi 12-24 mesi. Nel commento di Minkau si ricorda come la nostra crescita resti debole, modesta, e come il sistema bancario sia ancora in grave difficoltà a causa delle sofferenze sui crediti. E poi fa un insieme di similitudini l'editorialista del Financial Times tra le politiche di Renzi e quelle di Berlusconi. Scrive Minkau: invece di riformare il sistema giudiziario, la pubblica amministrazione ha optato per un taglio delle tasse sulla casa. Questo porterà voti, ma non cambierà la struttura di fondo del sistema economico italiano. Dicevamo della manovra, c'è anche una parte della manovra finanziaria che riguarda l'antiterrorismo. Oggi il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta ha detto che una prima ipotesi prevede altri 120 milioni di euro per l'antiterrorismo da assegnare all'intelligence e alla polizia, oltre ai 70 milioni già in conto. Per quello che riguarda le notizie relative all'Italia, sull'autostrada A19 Palermo-Catania è stata riaperta l'intera autostrada, la bretella è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni e la nuova bretella di collegamento sul viadotto Imera, quello che fu chiuso lo scorso aprile perché franò poco dopo essere stato inaugurato, cedettero alcuni piloni. E ancora, per la prima volta con l'ANAS abbiamo predisposto un piano quinquennale serio che vale 20 miliardi di euro, 12 miliardi per il sud, perché lo sviluppo, ha detto il ministro Delrio, del paese ci può essere solo se il sud cresce e questa è la nostra grande sfida. Il ministro delle infrastrutture lo ha detto. È interessante notare che, dice Delrio, per la prima volta con l'ANAS abbiamo predisposto un piano quinquennale serio, vuol dire che nel passato i piani predisposti non erano seri o non erano così seri. Ancora le partecipate pubbliche, dove appunto, che ne dica Gutgeld, il governo è intervenuto pari a zero nonostante la raccomandazione di Carlo Cottarelli, l'ex commissario alla Spending Review. Allora, nel 2013, il dato è un po' vecchio, le partecipate pubbliche in Italia erano 10.964 con 950.000 addetti, quelle attive erano 7.800 con 927.000 addetti. E tra l'altro le imprese a controllo pubblico generano complessivamente oltre 57 miliardi di valore aggiunto. Attenzione che dentro ci sono anche ovviamente Enel, Eni, Finmeccanica. Questi dati li ha diffusi il programma televisivo Report, ma su questi dati si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'Istat comincia a fare chiarezza sulla nebulosa delle cosiddette partecipate pubbliche, un agglomerato di aziende e società che vale quanto una grandissima multinazionale. Nel 2013 erano 10.964 le partecipate pubbliche in Italia, con oltre 953.000 addetti complessivamente. Ben più della metà, il 57,6%, è partecipato dal pubblico per una quota superiore al 50%, la dimensione media di 119 addetti e la forma giuridica prevalente è la SPA. Al netto delle attività finanziarie e assicurative, le controllate pubbliche generano oltre 57 miliardi di valore aggiunto. Alcune effettivamente agiscono come fossero aziende di mercato, ma sono ancora la minoranza. I settori che generano i volumi maggiori di utili sono la fornitura di energia elettrica e gas e i servizi idrici e gestione dei rifiuti. Altre volte invece si tratta di aziende che operano in settori di monopolio e spesso utilizzate a fini più clientelari e politici che non di mercato. E non è un caso, ad esempio, che nel settore dei trasporti locali si generino i maggiori volumi di perdita, pari a meno 180 milioni. Non è neanche un caso che le aziende partecipate direttamente dalle amministrazioni locali, con quote superiori al 50%, siano oltre 4.700, con più di 660.000 addetti, quindi la stragrande maggioranza. Per non parlare di cosa significa questo in termini di consiglieri di amministrazioni e di relativo gettone di presenza, che sono alcune decine di migliaia. Spesso quindi si tratta di stipendifici e non deve dettare scandalo se la Spending Review considera quello delle partecipate il settore dove si può ancora tagliare di più. Peccato che ancora questo non sia stato fatto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Una precisazione, ha ragione l'ascoltatore, devo aver confuso il viadotto Scorciavacche, quello che cade dopo l'inaugurazione, con il viadotto Imera. Mi riferisco alla Sicilia e alla bretella dell'A19. Invece, per quello che riguarda ancora due notizie inerenti all'Italia, ce n'è una buona che riguarda l'industria della moda italiana. Secondo quanto diffuso oggi da Pitti Immagine, il 2015 dovrebbe chiudersi con un aumento del 5% del fatturato dell'industria italiana della moda. Le esportazioni sono cresciute del 7%, pari a 60 miliardi e mezzo di euro. e l'86% di questo fatturato, di questo export, è dato dal vestiario, poi il restante 14% da occhiali, gioielli e bigiotteria. 60 miliardi e mezzo di export del settore moda, diciamo tutto incluso, vuol dire semplicemente il 25, un quarto dell'intero export italiano. Tra l'altro noi restiamo il paese europeo che ha il maggior numero di addetti ed occupati nel settore della moda e degli accessori. Praticamente da soli in Italia facciamo un quarto di tutti gli occupati europei nel settore moda e accessori. Il triplo della Germania e della Spagna, 5 volte la Francia. Uno potrebbe dire la Francia chissà quanti ne avrà. No, la Francia ha comprato anche molti marchi italiani, ma come addetti l'Italia ne ha 5 volte in più, e anche rispetto al Regno Unito. Sono 610.000 gli addetti italiani occupati nell'industria e 200.000 quelli nel commercio al dettaglio. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Adesso ci spostiamo ad Antalya e quindi in Turchia, dove c'è il vertice del G20. Alle 18.10 ascolteremo con Giulio Sapelli, che ha questa capacità di tenere assieme le variabili geopolitiche, storiche ed anche economiche, un punto sulla situazione. Ripeto, fermo restando che, attenzione, non vale meno la lotta all'ISIS fatta con le armi, con le bombe, con i missili e magari anche con le truppe di terra, rispetto alla lotta all'ISIS fatta distruggendo le sue fonti di approvvigionamento economico. Sono due guerre fondamentali. Se ne fai solo una, rischia quella di carattere militare, non dico che rischi di perdere, ma rischi che ti costi più fatica e molte più vittime, se non blocchi anche un finanziamento che, ripeto, la Russia e il Financial Times stimano in 40-50 milioni di dollari al mese. Capirai, insomma, quante armi e quante persone riesci a foraggiare. Antalya, il G20 che chiaramente diventa un G20 sugli attentati di Parigi, si sono impegnati a contrastare i canali di finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda la cooperazione, lo scambio di informazioni, il congelamento degli asset dei terroristi e le sanzioni verso i regimi che finanziano. C'è il nostro Alessandro Merli, inviato ad Antalya. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Chiaramente, insomma, un G20 che doveva parlare delle prospettive di crescita, il rallentamento dei paesi, diciamo, degli ex BRICS, è un G20 tutto dedicato dedicato agli attentati di Parigi. Mi sembra, però forse mi sbaglio, che su questo tema l'abbia fatta non dico da padrone, ma insomma si sia garantito la parte da protagonista Vladimir Putin nel raccontare, mostrando anche queste foto, insomma, quelle che sono le stime, le colonne, se ho ben capito, di camion, di cisterne per decine di chilometri. E poi veniamo anche a Putin, però hai messo giustamente l'accento su questa questione del finanziamento del terrorismo, perché è chiaro che finché il terrorismo comincia, le organizzazioni terroristiche continuano a finanziarsi impunemente, diventa difficile contrastarle poi sotto il profilo militare. Il problema che ho con la lettura di questo comunicato del G20 è che si appella all'azione di una istituzione che fu creata nel remoto 1989 dal G7, allora G7, che si chiama Gruppo di Azione Finanziaria, allora fu creata in funzione antiriciclaggio. Poi dopo l'11 settembre nel 2001 si disse: abbiamo questo organismo, sfruttiamolo per combattere le fonti al terrorismo finanziario. Nel comunicato di oggi si dice esattamente la stessa cosa che si disse nell'ottobre del 2001, cioè affidiamo al gruppo di azione finanziaria gli interventi di congelamento, scambio di informazioni, eccetera, eccetera. Ora, questo gruppo di azione finanziaria poi andrà analizzato meglio, però evidentemente in questi 14 anni un gran buon lavoro non l'ha fatto. cioè le fonti di finanziamento del terrorismo restano sostanzialmente intatte. Sì, sono stati fatti congelamenti di beni qui e là, bloccati conti bancari eccetera, ma di fatto questo fiume, questo canale di finanziamenti continua abbastanza intatto. A questo si aggiunga il fatto che l'ISIS o ISIS ha conquistato una parte dell'Iraq settentrionale dove ci sono dei pozzi di petrolio, la zona di Mosul, dai quali, come appunto mostrano i famosi camion, trae un altro canale di finanziamento. E sappiamo che il mercato del petrolio è notoriamente opaco, poco trasparente, dei compratori si trovano sempre. È vero che il prezzo del petrolio sta a $40 al barile, non più a 100, però insomma questa è un'altra via. Per cui ecco, questa dichiarazione del G20 di affidare a questo Gafi, a questo gruppo di azione finanziaria, l'iniziativa di bloccare questi canali non mi lascia molto tranquillo, nel senso che negli ultimi 14 anni i grandi successi sono stati diciamo abbastanza limitati su questo fronte. Ecco, per quello che riguarda Putin invece è abbastanza chiaro che è entrato, diciamo, che si direbbe in un grand bargain, cioè in un grande affare, in un grande scambio con l'Occidente, in cui forse otterrà un po' di allentamento delle sanzioni fatte sull'Ucraina per la sua partecipazione alla lotta al terrorismo, tanto che lo stesso Putin oggi ha annunciato una proposta per condonare o in qualche modo risolvere il problema del debito che l'Ucraina ha nei confronti della Russia. Quindi questa apertura di Putin anche su questo fronte dimostra che sotto traccia, insomma, si sta arrivando a un accomodamento con Putin per cercare di tirarlo almeno dalla stessa parte nella lotta al terrorismo, perché come sappiamo Putin a un certo punto ha detto sì, intervengo in Siria, ma è intervenuto in Siria per bombardare gli oppositori di Assad, cioè del suo alleato, che a loro volta erano alleati dell'Occidente. Quindi insomma l'Occidente probabilmente in qualche modo, con qualche scambio di qualche genere, sta cercando di tirare Putin dalla sua parte, e Putin, che era isolato diciamo anche da questo vertice, esce con un ruolo rafforzato, in quanto diventa a questo punto un elemento indispensabile della strategia dell'Occidente per combattere il terrorismo adesso in Siria. La cosa più brutta in questi casi è avere il senno del poi, però era anche difficile immaginare una guerra dell'Occidente o contro il Medio Oriente, o meglio contro i terroristi dell'ISIS, e quindi la loro occupazione militare di pezzi della Siria, dell'Iraq, senza il coinvolgimento della potenza, della superpotenza mondiale, ma a maggior ragione nel caso geografico come la Russia. Visto, tu citavi giustamente l'atteggiamento di Putin, che è andato a bombardare più e gli oppositori di Assad, anche se erano magari alleati dell'Occidente, contro l'ISIS che non l'ISIS stessa. Molti ascoltatori dicono: ma se Putin ha la foto di questi camion, perché non li ha bombardati, di queste cisterne, perché non li ha bombardati lui? Faccio anche notare da questo punto di vista che adesso l'Occidente non ha neanche avuto la capacità di imporre. Se il G20 è Antalya, ebbene, se c'è un paese che è stato ipocrita nella guerra all'ISIS è la Turchia, perché ha preferito bombardare molto spesso i curdi più che l'ISIS. Insomma, era difficile non immaginare che la Russia venisse coinvolta quando è un tema del genere, ma ne parleremo più avanti, perché questo fa parte anche della miopia nell'intera gestione della vicenda siriana da parte degli Stati Uniti in primo luogo. Comunque, dopo il meteo e la pubblicità, invece, Alessandro, vorrei toccare gli altri temi di carattere economico. Devo dire che anche il Premier Cameron ha annunciato misure importanti per tagliare i flussi finanziari verso l'ISIS e altre sigle terroristiche. Angela Merkel ha detto: da qui il segnale che noi siamo più forti del terrorismo. Renzi ha detto: vabbè, nella legge di stabilità metteremo più soldi, siamo disposti a discutere di più soldi e fondi alla sicurezza. Dopo il meteo, invece, gli altri temi di carattere economico. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. A me pare che la sintesi estrema del G20 sia contenuta una volta di più nel grande invito che ha fatto il presidente Obama a stressare i valori della crescita, degli investimenti, della mettere più risorse nelle tasche dei lavoratori. Noi abbiamo fatto l'operazione degli 80 euro, abbiamo adesso lanciato la riduzione delle tasse, partendo dall'IMU e dalla tassa di prima casa, che riguardano per il 75% lavoratori dipendenti o pensionati, quindi sono più soldi che vanno alle persone che quotidianamente fanno fatica ad arrivare in fondo alla giornata. Dunque più soldi in tasca ai lavoratori, più crescita, più investimenti, è la linea politica dell'Italia, è la linea politica economica che questo governo ha mandato avanti da qui al vertice in Cina, che sarà tra 10 mesi, il 4 e 5 settembre del 2016, contiamo di dare il colpo di reni definitivo della ripartenza del nostro paese, ma questo credo che serva soprattutto a un'Europa che ha bisogno non soltanto di austerity, ma ha bisogno soprattutto di crescita. Questo è il leitmotiv economico del G20: crescita, crescita, crescita, investimenti e più attenzione alle regole, con i buoni esempi che vengono dall'Italia della lotta alla corruzione e all'evasione fiscale. Allora, so già che quest'ultimo passaggio della frase di Renzi, i buoni esempi che vengono dall'Italia in tema di lotta alla corruzione, a meno che non si voglia dire che siccome facciamo la lotta alla corruzione abbiamo così tanti scandali e all'evasione fiscale, saranno molto contestate e contestabili, sono. Però Alessandro Merli, al di là della vicenda ISIS, il G20 ha anche dato via libera definitiva a un piano di azione contro l'elusione e l'evasione delle tasse da parte delle multinazionali. Si chiama Base Erosion and Profit Shifting, il fatto che, l'abbiamo raccontato più volte, le grandi multinazionali paghino le tasse magari in paesi dove non sviluppano la maggior parte del fatturato, ma hanno la tassazione più conveniente, e le varie filiali fatturano a loro con un giro che è legale ma è di elusione fiscale. Secondo l'OCSE, i meccanismi di ottimizzazione fiscale, come si chiamano con un eufemismo, di elusione fiscale, si traducono in mancate entrate tra i 100 e i 240 miliardi di euro l'anno, di dollari l'anno, sia tra il 4 e il 10% del gettito totale dei redditi da impresa. Che cosa prevede questo accordo, Alessandro? Questo accordo ormai è stato telegrafato, diciamo, in molti modi, è già stato approvato dai ministri delle finanze, adesso semplicemente i leader ci hanno messo il proprio bollino. L'accordo prevede intanto uno scambio di informazioni automatica per quello che riguarda gli individui, quindi diciamo abbraccia sia gli evasori individuali che le società, quindi scambio di informazioni automatiche fra le autorità fiscali dei vari paesi, e dall'altra parte, come dicevi, evitare che le società multinazionali o comunque che operano su più giurisdizioni sfruttino il fatto che sono state passate nel tempo molte norme giuste per evitare che le società pagassero le tasse in due paesi diversi sullo stesso reddito, che li sfruttassero in modo da non pagarle né da una parte né dall'altra, quello che è stato chiamato l'accordo per la double non-taxation, quindi non farsi tassare né da una parte né dall'altra. Se effettivamente raggiungerà le cifre di cui parla l'OCSE resta tutto da vedere, comunque almeno questa è una cosa concreta che è uscita dal G20, anche se, come dico, ai capi di Stato e di Governo non restava ormai che mettere il loro timbro su una cosa che i ministri delle finanze avevano già licenziato nelle loro ultime riunioni, che comincia a muoversi anche abbastanza rapidamente. Tanto è vero che sia molte società che anche molti individui, in previsione di queste modifiche delle norme, stanno già cominciando a mettersi in regola, nota l'OCSE. Sì, il fatto che dicessimo delle cose concrete, delle poche cose concrete, la dice lunga sul resto, Alessandro, nel senso che abbiamo capito che la parte che riguarda la lotta, il modo in cui l'ISIS si finanzia, fa parte delle intenzioni, anche se di concreto. Però, a mio avviso, lo dico anche agli ascoltatori, quanto Alessandro Merli ricordava prima, cioè il fatto che, insomma, dai, Putin si sta togliendo non tanto qualche sassolino dalla scarpa, ma insomma sta facendo pesare il suo ruolo indispensabile a questo punto e andrà a trattare anche sulle sanzioni nei confronti dell'Ucraina. Questo è un altro elemento concreto, sebbene non ci sia un comunicato ufficiale, come non ci sarebbe potuto essere in ogni caso. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Antalya. Traffico, poi borsa e poi iniziamo a ragionare dei finanziamenti dell'ISIS. Focus Economia. minuti. Allora, la borsa oggi vuol dire meno 0,14% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,30, il Dow Jones più 0,40%, euro a quota 1,07. Dovrete accontentarvi di me oggi nel commento di borsa. Per quello che riguarda i titoli, partiamo da chi è andato bene: Finmeccanica più 2,70%. Movimenti generali del settore sia per Finmeccanica ma anche per Tenaris ed Eni. Faccio notare che bene è andata Anima Holding in recupero dopo le vendite forti della scorsa settimana, più 2,40%. Anima ha lanciato l'offerta su Arca, anche se è arrivata un'altra offerta americana, comunque più 2,40%. Buzzi Unice in più 1,80%. Debole oggi tutto il lusso. A chi mi chiede al 349-238-6666 su WhatsApp se è vero che sì, Wall Street ha osservato, come dicevo in apertura, un minuto di silenzio per gli attacchi a Parigi. Dicevo, debole lusso meno 4,30%. Ci sono dati, come ricordavo in apertura, negativi sul Giappone, PIL che è andato in calo nel terzo trimestre dell'anno. Ferragamo perde 4,30. Chiaramente uno, quando pensa al lusso, ragiona sui mercati asiatici. I mercati asiatici si chiamano in parte Cina e soprattutto Giappone. Comunque Ferragamo meno 4,30, Yux Net a Portée meno 2, Moncler meno 1,40%, Tod's meno 1,30%. Che è successo a Case New Holland Industrial, CNH, meno 5,33%? C'è un giudizio di una banca d'affari che ha tagliato il voto, ha dato un giudizio negativo soprattutto sulle prospettive del settore agricolo, e quindi Case New Holland, che vende trattori e non solo, anche camion, insomma, subisce le conseguenze negative. Poi la notizia di carattere internazionale è che Marriott International ha chiuso l'accordo per acquistare Starwood Hotel, un'operazione enorme da 12 miliardi e 200 milioni di dollari sia in contanti che in titoli, e verrà creata in questo modo la più grande catena di alberghi al mondo, che unirà i Marriott agli Starwood Hotel. Praticamente gli azionisti di Starwood riceveranno 0,92 azioni Marriott e 2 dollari in contanti per ogni azione Starwood detenuta. L'altra notizia di borsa invece riguarda il gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Perché lo dico? Non perché sia successo qualcosa di particolare oggi, però RCS è il peggior titolo in assoluto, perde il 10-20%, e a questo punto porta il suo calo a oltre il 30%, quasi il 30% nelle ultime 4 giornate di borsa. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera. Antonella, oggi io non ho visto notizie particolari, certo ci possono essere sfuggite viste le complicazioni. No, infatti diciamo non ci sono notizie particolari, se non diciamo c'è la coda di report degli analisti che vengono ancora dai risultati rilasciati la settimana scorsa. Sono risultati che hanno deluso molto, per cui hanno provocato qualche revisione al ribasso delle stime anche degli analisti, ma soprattutto diciamo perché ha letto il comunicato originale, la cosa così che veniva un po' adombrata era che ci fosse il dubbio sulla continuità aziendale. Diciamo è una clausola un po' legale, però insomma dà un po' l'idea che la situazione non sia tranquillissima. C'è in ballo un discorso di delega per l'aumento di capitale che sta per scadere a fine anno, e il consiglio non se la sente del tutto di rinunciarci, per cui convocherà l'assemblea per chiedere il rinnovo della delega, ma insomma dà un po' l'idea che ci sia una situazione dove c'è molto da lavorare, cioè appena se n'è appena andato l'amministratore delegato precedente Pietro Scotiovane e si è appena insediato un amministratore delegato nuovo che è Laura Cioli e c'è un piano tutto da rifare, da presentare al mercato prima della fine dell'anno, anche questo insomma è un po' un fattore di incertezza. No, perché insomma perdere comunque quasi un terzo del capitale di borsa in quattro giorni non è da poco, però appunto volevo capire, tu ci confermi che il mercato ragiona ancora sugli elementi della settimana scorsa, di fine settimana scorsa? Sì, cui... sì, beh, diciamo che credo che sia stata una mazzata abbastanza. Vabbè. Allora, grazie intanto ad Antonio Olivieri, era importante comunque un aggiornamento. Tra i titoli, male anche CTB Pharma meno 6,70, Friendly Energy meno 6,50, il Venture Group meno 6,20%, e ancora bene invece i KF più 16,25%, più 16,50%, Gala più 12%, Mondo TV più 7%. E 80%. Molti messaggi sulle frasi di Renzi per quello che ha a che fare con la lotta all'evasione. Dov'è la frase? Adesso la riprendo un attimo. Colpo di reni, abbiamo fatto passi avanti sulla lotta all'evasione e la lotta alla corruzione. Ripeto, voi sapete cosa pensa chi conduce questo programma della legge di stabilità in tema lotta all'evasione. Pensiamo che sia sbagliata la soglia di 3.000 euro, sbagliato il messaggio che si dà, sbagliata anche la manovra su IMU e TASI, non su IRPEF e IRES. Dopodiché, che sia per motivi elettorali, è chiaro a tutti, la voluntary disclosure il governo non se la può imputare perché è un percorso iniziato prima. La lotta alla corruzione, vedremo. Uno può anche dire che questi scandali emergono perché c'è la lotta alla corruzione. Quello che è certo è che emergono gli scandali. Ma adesso vorrei chiudere le polemiche su Renzi e anche gli insulti che arrivano ogni volta che lo faccio ascoltare. Continuerò a far ascoltare il Presidente del Consiglio, non c'è dubbio su questo, perché questo è un programma di informazione e piace o non piace, i Presidenti del Consiglio fanno informazione, che si chiamano Berlusconi, Prodi, Monti, Letta o Renzi. E invece vorrei iniziare a ragionare di quanto è avvenuto e soprattutto il tema del finanziamento, la guerra al finanziamento dell'ISIS, ripeto, è una guerra tanto importante quanto quella militare ai terroristi islamici. Il primo che sento chiamarlo Stato Islamico, faccio come Goebbels con la cultura, e adesso lo dirò anche eventualmente ai colleghi del GR se questo dovesse essere sfuggito. E allora iniziamo a parlare purtroppo della Francia e di come si combatte una guerra non solo di carattere militare, perché che sia una guerra è fuori discussione. Professor Giulio Sapelli, che tra poco avremo nostro ospite, la saluto. Io voglio leggere però una cosa, quanto ho, perché c'è una dichiarazione, la leggiamo dopo il GR24, perché oggi in tutte le notizie, tra ieri e oggi e sabato, figuratevi che sono arrivate, c'è una dichiarazione del premier australiano. Voi direte, ma che cavolo c'entri il premier australiano con l'ISIS? No, perché ha una dichiarazione, a mio avviso, che è un manifesto, può piacere o no, di civiltà, dopo aver invitato tutti i musulmani che ci sono in Australia, che vogliono vivere secondo la legge della Sharia islamica, ad lasciare l'Australia. Detta così sembra una dichiarazione razzista, in realtà il ragionamento che lui fa è un ragionamento, a mio avviso, su cui almeno si deve iniziare a ragionare, per poi attaccare i terroristi dell'ISIS sia sul fronte economico che su quello militare. Voglio avere il tempo, quindi lo facciamo dopo il GR24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, sul sfondo chiaramente la Marsigliese in versione sonora. Ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento il professor Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano, nostro ospite molte volte. Fra poco avremo anche Leonardo Maugeri, uno dei massimi esperti al mondo di petrolio. Buonasera Sapelli. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Immagino che si possa unire oggi, niente uccellacci, mi sembra. Certamente. Allora, vorrei iniziare. Il tema chiaramente è come si combatte l'ISIS e i terroristi dell'ISIS, anche con la guerra di carattere economico, oltre che quella di carattere militare. Però vorrei, ma non è fuori tema, leggere quanto dichiarato il premier australiano. Dice che cosa c'entra il premier australiano? No, John Howard. Ha detto, leggo tutta la frase perché tutta la dichiarazione, perché mi avviso, da lì che dobbiamo partire. Prendere o lasciare, sono stanco che questa nazione debba preoccuparsi di sapere se offendiamo alcuni individui o la loro cultura. La nostra cultura si è sviluppata attraverso lotte, vittorie, conquiste portate avanti da milioni di uomini e donne che hanno ricercato la libertà. La nostra lingua ufficiale è l'inglese, non lo spagnolo, il libanese, l'arabo, il cinese, il giapponese o qualsiasi altra lingua. Di conseguenza, se desiderate far parte della nostra società, imparate la lingua. La maggior parte degli australiani crede in Dio. Non si tratta di obbligo di cristianesimo, di influenza della destra o di pressione politica, ma è un fatto, perché degli uomini e delle donne hanno fondato questa nazione su dei principi cristiani e questo è ufficialmente insegnato. È quindi appropriato che questo si veda sui muri delle nostre scuole. Se Dio vi offende, vi suggerisco allora di prendere in considerazione un'altra parte del mondo come vostro paese di accoglienza, perché Dio fa parte della nostra cultura. Noi accetteremo le vostre credenze senza fare domande. Tutto ciò che vi domandiamo è di accettare le nostre e di vivere in armonia pacificamente con noi. Questo è il nostro paese, la nostra terra, il nostro stile di vita. E vi offriamo la possibilità di approfittare di tutto questo. Ma se non fate altro che lamentarvi, prendervela con la nostra bandiera, il nostro impegno, le nostre credenze cristiane o il nostro stile di vita, allora vi incoraggio fortemente ad approfittare di un'altra grande libertà australiana: il diritto ad andarvene. Se non siete felici qui, allora partite. Non vi abbiamo forzati a venire qui, siete voi che avete chiesto di essere qui. Allora rispettate il paese che vi ha accettati. Poi da lì partiremo, Sapelli, con l'analisi di come si combatta l'ISIS. Però insomma, questo è un principio che uno può dire, ma cristiano è inutile, Croce diceva che siamo tutti cristiani, lei lo condivide o no? Oppure siamo... Lo condivido se lei dice agli ascoltatori anche che il 30% dei cittadini australiani attuali non è nato in Australia, e che quindi c'è stato un processo simile a quello degli Stati Uniti d'America, sono diventati cittadini australiani dopo un lungo periodo di stato civico, e naturalmente, come sanno tutti, per andare in Australia, per poter avere un visto che non sia quello business, sia una sorta di carta verde americana, bisogna conoscere molto bene l'inglese. Naturalmente poi dopo lì ognuno è libero di praticare la sua religione, e le assicuro che questo avviene con la massima libertà e tolleranza. No, ma infatti io forse avrei rivendicato... Infatti, ma lei ha detto una cosa giusta. Avrei aggiunto solo anche i principi, visto che ne parliamo, arrivano dalla Rivoluzione Francese, che sono principi di libertà. Sì, arrivano dalla Rivoluzione Francese. Non solo dal cristianesimo, anche dal cristianesimo. E arrivano, sì, infatti se vogliamo dirla proprio in modo serio, quello che fonda la civiltà moderna è l'unità dei principi cristiani e l'unità dell'universalismo massonico alla Montesquieu, no? che era quello di una ragione che per i cristiani è la ragione naturale, oltre che la ragione divina, perché loro che non credono è la ragione del diritto naturale, e alcuni diritti sono... Ora, la cosa interessante è che questo discorso non l'ha fatto ieri o oggi, l'ha fatto nel, nel 2005, certo. Per quello che ci è tenuto a non dirlo prima, l'ha fatto nel 2005. Alcuni principi, e questo lo dico poi adesso ragioniamo sul, sul tema, però quando leggo di dovremmo rinunciare, qualcuno mi ha scritto rinunciamo al Natale, quindi, di segno di solidarietà, ragazzi, ma così come il, c'era, dov'è che ho visto la Oxford, adesso non mi, a memoria, che aveva chiesto di eliminare la parola carne di maiale, ma qui stiamo tutti impazzendo. Allora, detto ciò, siccome adesso vorrei parlare di come si combatte economicamente l'ISIS, professor Sapelli, la sua idea qual è? Insomma, oggi Putin è uscito come un gigante, ha detto, ha mostrato le foto dei di chilometri di autobotti al G20 di Antalya, autobotti che ogni giorno vanno a vendere petrolio contrabbandandolo, e da quello che abbiamo capito anche con Alessandro Meli sta contrattando, diciamo, un alleggerimento, diciamo, della posizione verso le sanzioni russe, perché si è capito, forse anche l'Occidente l'ha capito, che senza la Russia tu l'ISIS non lo combatti, e anche senza la Turchia che fa lo gnorri in questo momento. Prego, Sapelli. No, su questo non c'è dubbio, diciamo, Putin è un uomo che esprime bene la grande scuola diplomatica del grande Ponomariov, che è morto nel giugno del 2015 nell'assoluta dimenticanza di tutte le persone che avrebbero dovuto invece ricordare questo grande diplomatico allievo di Gromyko. No, come si combatte? Naturalmente, come ci spiegherà poi anche bene Maugeri, naturalmente l'influenza che hanno sul prezzo del petrolio, sulle dinamiche del petrolio, queste poche fonti a cui l'ISIS può attingere quando non c'è la resistenza dei curdi, e poi dopo bisognerebbe dire che in ogni caso lo mettono in circolazione grazie alle grandi compagnie di trading che hanno sedi in Austria, io non dico le sigle perché non voglio fare propaganda in Pauste, o in Svizzera. Quindi l'ISIS di per sé è una piccola goccia nel mare di un grande petrolio che per fortuna viene ancora fuori da altre parti. Il vero problema, se volessimo dare un colpo mortale all'ISIS, ma questo non, mi pare che sia molto difficile mettersi d'accordo, bisognerebbe farlo su quelli che sono i suoi finanziatori occulti fino a un certo punto, che sono l'Arabia Saudita e il Qatar. E questo mi pare molto molto molto importante, però non mi vedo, diciamo, l'Occidente deciso a bombardare Riyadh, ecco, questo, oppure a fare delle sanzioni a Riyadh. Forse piuttosto che fare le sanzioni alla Russia bisognerebbe fare l'Arabia Saudita, ecco, allora lì forse potremmo avere un po' più di forza di negoziazione. C'è la variabile americana. Allora, professor Sapelli, resti con noi perché ci ha raggiunto, prego, appunto, già evocato anche da lei, Leonardo Maugeri, per anni direttore strategia e sviluppo dell'ENI e poi insegna ad Harvard petrolio e energia, ed è tra i massimi esperti al mondo di petrolio, ha scritto un articolo anche molto bello proprio su Sole 24 Ore. Maugeri, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi, scusatemi il rumore di fondo. No, vabbè, immagino che non sia quello di una piattaforma petrolifera. Dopo il traffico, però, vorrei capire perché lei ritiene che, come ha scritto su Sole 24 Ore, il petrolio, per quanto importante per l'ISIS, sia un'arma spuntata. Traffico. Focus Economia. Allora, Leonardo Maugeri, perché lei scrive oggi sul Sole 24 Ore che il petrolio per l'ISIS è un'arma comunque spuntata? Perché insomma i dati che noi diffondevamo oggi sui barili, sui 12, in 12 mesi mezzo miliardo di guadagno in un anno, i dati diffusi oggi da Putin nel corso del G20, è tanta roba. Ah, guardi, i dati che, visto che poi sono i dati diffusi dall'intelligence statunitense, parlano oggi di un controllo di petrolio da parte dell'ISIS che oscilla fra i, che arriva massimo a 15.000 barili al giorno. 15.000 barili al giorno al massimo, sì. 15.000 barili al giorno, che per carità, questo sull'Iraq è basta, sulla Libia non ci sono dati precisi. Parliamo di poche cose, ecco, ricordiamo sempre agli ascoltatori che il consumo mondiale di petrolio è 95 milioni di barili al giorno. Sì. Certamente per finanziare un movimento anche 15.000 barili al giorno, magari con un prezzo del greggio svenduto, vanno bene, ma sono poca cosa. Il problema anche in prospettiva è che se noi guardiamo ai due paesi dove l'ISIS ha una, già una presenza in paesi petroliferi, Iraq e Libia, anche in prospettiva è difficile per l'ISIS usare il petrolio come arma, utilizzando come base questi due paesi, perché in Iraq il 90% della produzione è al sud del paese, che è totalmente in mano agli sciiti, sono nemici giurati dei sunniti. Mentre in Libia vero che l'80% delle riserve petrolifere libiche è nella parte orientale del paese, dove ci sono notevoli infiltrazioni dell'ISIS. Però stiamo parlando di un paese, la Libia, che attualmente produce 400.000 barili al giorno, cioè un'inezia. E anche se l'ISIS riuscisse a tenere il controllo di alcuni giacimenti più rilevanti, quindi ho capito cosa dice. Dice da un lato che l'Iraq, purtroppo la linea è leggermente disturbata, chiedo scusa agli ascoltatori, che in Iraq quasi il 90% della produzione di greggio attuale è nella zona del sud, dove, che è in mano agli sciiti, e per quello che riguarda la Libia è vero che i pozzi stanno da una parte, diciamo, più vicina all'ISIS, ma la produzione libica è ai minimi storici. Questo, non so se Mangieri ci stia sentendo ancora. Certo, sì, sì. Ecco. E quindi attenzione a dire che il petrolio iracheno è in mano all'ISIS, questo è assolutamente corretto, però la cifra comunque per finanziare un movimento terrorista, Maugeri, è chiaro che è sbagliato dire controllano il petrolio iracheno, perché ne controllano un quindicesimo, come lei ricordava, molto meno, perché sono tra i 15 e i 30 mila barili su 4 milioni di barili al giorno, però la cifra di mezzo miliardo, 500 milioni di euro in 12 mesi vendendo petrolio, quindi circa sostanzialmente 50 milioni, 40 milioni al mese, è una cifra sufficiente, è mai vista prima in un movimento terroristico? Oppure la sua idea è che in realtà il grosso degli aiuti arrivi dall'Arabia Saudita? Perché poi molti ci chiedono: ma dove li vendono sti barili? Putin oggi ha mostrato le foto delle autobotti, decine di chilometri di autobotti, ma non è che poi li vendono a paesi, diciamo, più vicini e più amici, tra virgolette? No, guardi, il contrabbando di greggio, per esempio, all'Iraq e la Turchia è sempre esistito. Quegli autobotti che faceva vedere Putin esistono da 30 anni ed è una delle vie tradizionali con cui il greggio iracheno usciva dalla parte nord dell'Iraq, dalla parte curda. È sempre esistito, quindi non c'è niente di nuovo. Quello. Okay. E quello è poco altro. È vero che è bello fare tante volte della crearci delle spy story sopra, ma non è così. In realtà, ripeto, come fonte di autofinanziamento non è male, ma da qui a pensare che lì possa utilizzare il petrolio come arma contro l'Occidente, veramente siamo nel campo delle ipotesi surreali. Anche perché poi per usare veramente il petrolio come arma, lì dovrebbe avere la capacità organizzativa e militare per colpire le grandi regioni petrolifere a partire dall'Arabia Saudita. Non c'è mai riuscito nessuno fino a oggi. Guardi, le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e degli altri paesi sono le più presidiate dagli apparati di sicurezza più imponenti che esistano, e poi si estendono in vastissime aree con impianti multipli. Quindi, con lei ha una capacità militare da grande stato, oppure sì. Risintetizzo, perché mi rendo conto che la comunicazione sia un po' difficoltosa. Lei dice: attenzione, che è 30 anni che il petrolio dall'Iraq illegalmente viaggia sul confine, verso il confine turco, e quindi attraverso il Kurdistan. Non c'è nulla di nuovo, erano rotte già conosciute, che non vuol dire che non sia preoccupante, ma non è una cosa che hanno inventato i terroristi dell'ISIS. E secondo aspetto, attenzione che, come scrive anche giustamente oggi su Sole 24 Ore, che i pozzi di estrazione petrolifera, soprattutto in Arabia Saudita, ma non solo, sono tra le strutture più presidiate al mondo. Non ce la fai, anche per la loro dislocazione geografica, come semplice attacco terrorista. È molto più facile e vigliacco, chiaramente, farsi esplodere in un ristorante o ammazzare, fare una carneficina in un teatro, che non attaccare delle strutture ben presidiate. Ci vorrebbe un esercito vero e proprio. Io, nel ringraziare Leonardo Maggeri, chiedo di nuovo scusa, ma il collegamento era difficoltoso, chiedo a Giulio Sapelli, che ha sentito comunque l'analisi di Maugeri. A questo punto, però, insomma, sapere, c'è qualcosa che non mi sta tornando, cioè Putin va al G20, insomma, per modo di, e viene, non dico osannato, però tutti capiscono che senza la Russia non fa nulla ed è l'unico che prende una posizione con le foto dicendo guardate che io so dove bombardiamo. La Turchia ha vinto Erdogan e sappiamo che la Turchia fa parte della NATO, ma non mi sembra che l'Occidente abbia mai alzato la voce contro la Turchia. L'Arabia Saudita è l'alleato, era l'alleato preferito degli Stati Uniti nella regione, adesso si cerca di sdoganare, si sta riuscendo a sdoganare l'Iran, ma insomma c'è qualcosa di assolutamente caotico. No. Cosa stiamo procedendo a tastoni? No, prego. No, scusi, c'è qualcosa di straordinariamente chiaro, perché vede, faccio un ragionamento molto semplice, così capiamo tutti. Nel mare Mediterraneo non c'è più una porta aerea americana. E non c'è neanche più una squadra navale americana in grado di, e questo servono le navi da combattimento, di svolgere dal mare un'offensiva sulla terra. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che vede tutte quelle nazioni, salvo la Russia naturalmente, a cui lei ha fatto cenno, soprattutto l'Arabia Saudita e la Turchia, prima erano raccolte attorno agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, come diceva Theodore Roosevelt quando parlava di come si dovevano comportare gli Stati Uniti nel Sud America, usavano prima la carota e quando c'era bisogno il bastone. Adesso gli Stati Uniti danno ai loro alleati la carota, anzi spesso se la fanno dare anche da loro perché dicono che non hanno i soldi e devono metterle loro, ma non hanno più nessun bastone su cui eventualmente dargliele sulla testa, di modo che costoro, soprattutto la Turchia, che è giunta come membro della NATO addirittura a negare l'uso delle basi NATO agli aerei americani, ma l'Italia, che non riusciamo a fargli una stazione radar vicino a Comiso, Mois, no? Continuiamo a sentire un tempo non c'era TAR che si faceva non è che la lotta all'ISIS la facciamo col TAR. Si faceva una passeggiata davanti al TAR con una squadra di soldatini ben messi, si facevano passare 4-5 navi militari americane da Napoli e vede che la cosa arrivava subito. Non parliamo poi dell'Arabia Saudita, che era tenuta, naturalmente l'hanno costruita loro, ma era tenuta a stecchetto. Adesso gli Stati Uniti hanno fatto un lento, loro pensano che al loro lento disimpegno gli alleati continuano a occuparsi come prima, invece no, gli alleati adesso hanno in mente altre cose, alla Turchia, lei l'ha detto molte volte nelle sue trasmissioni coraggiose e intelligenti, cosa gli interessa? Sterminare i curdi turchi e fare in modo che i turchi curdi, i curdi turchi non imitino i curdi siriani, che grazie alla non avvenuta disgregazione della Siria, perché sennò saremmo veramente caduti in una situazione come quella dell'Iraq, terribile, grazie alla Russia, però imitano, vorrebbero fare come i curdi siriani, cioè fare uno Stato autonomo. E quella questione del petrolio, che ha ragione Maugeri, naturalmente non fanno la guerra col petrolio, ma finché lo pompano cosa fanno? Lo vendono alle compagnie di trading svizzere, austriache e di altre nazioni che non dico, e naturalmente ci fanno dei bei soldini dove si comprano sul mercato delle armi gli enormi depositi di armi ex sovietiche che sono a disposizione di tutti e soprattutto anche nei dintorni delle banlieue di Parigi. Quindi è vero che non intaccano il mercato del petrolio, ma ci mancherebbe altro. Però naturalmente il fatto che li si lascia scorrezzare con le bettoline e non li si bombardi è qualcosa di inqualificabile. Ecco, quindi questa è la vera questione. Questa è la vera questione, che allontanatosi il bastone americano, perché non eravamo solo alleati, eravamo anche sorvegliati, guardati. Ecco, allora, e soprattutto la Turchia ha delle responsabilità enormi. Questo Erdogan è una persona che ha delle responsabilità terribili, perché ha usato la Turchia per far passare i foreign finer come fossero dei turisti. Sì, no, a quel punto io devo salutare perché il nostro tempo a disposizione è finito, ma poi la riavremo ospite, Seppelli. Però adesso non voglio dire una bestialità. ma è chiaro che nel momento in cui tu prendi l'iniziativa che hai preso contro la Russia, a questo punto sappiamo quanto improvvida sia stata, ma non tanto sul fronte economico, ma insomma mettendo in difficoltà anche un'area geografica come l'Europa, perché l'America esporta poco in Russia, non un po' di più, e non fai nulla sulla Turchia, è difficile poi sostenere che non usi due pesi e due misure, perché la Turchia, non dico che anche la Russia non ha formalmente invaso l'Ucraina, sono filo russi, ma la Turchia non è che si stia comportando in maniera molto diversa con l'ISIS. Arriveranno le rimostranze dell'ambasciatore turco, ma non mi importa. Grazie intanto a Giulio Sapelli, devo veramente chiudere. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni comunque l'auguro di una buona serata, comunque vada, e domani il Focus Economia torna dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.